Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Uno specchietto d'improvviso ci riflette. Siamo abbronzate e un po' selvagge, bruciate dal sole e dal mare. Ci vedo sorridere e un fermo immagine incastra quel momento nei ricordi più acri. So che farà male un giorno se non ci sarai. Ciao a tutti, sono Anna, abito in Sicilia, provincia di Agrigento, un piccolo comune, si chiama San Biagio Platani. Sono praticante avvocato in attesa dell'esame di abilitazione. Incrociamo le dita. Sembra non averci voglia, Anna, da questa presentazione, ma vi assicuro che ci ho parlato prima al telefono ed è felice di partecipare. Sembra che ci addosso un po' di camurria in questa sua presentazione. Sono Anna, tipo, che mi avete chiamato a fare? Ma non è così, ve l'assicuro. Forse era un po' emozionata, o Margherita l'aveva beccata appena sveglia. Margherita è un martello, cioè se voi mandate una storia e decidiamo che vi mandiamo in onda, questa vi sta alle calcagna fino a che non vi stana e non vi obbliga ad andare in onda. Io vi dico solo questo: sappiate che se Margherita è sulle vostre tracce, per voi è finita. La storia di oggi è una storia d'amore, e non perché oggi è San Valentino. Ogni tanto facciamo ogni tanto noi facciamo delle cose un po' a caso e che cadono nei momenti giusti. Questa l'abbiamo scelta un po' sì o un po' no, perché è una storia particolare. Poi non è una storia particolare, è una storia normalissima, che parla d'amore tra due ragazze e che sono in vacanza insieme. Però tant'è, è una storia d'amore. Prima di introdurla, però, prima di cominciare a raccontarvela, io voglio raccontarvi un altro episodio che ho letto qualche sera fa su un libro che mi ha regalato Tiziano, che parla di storie, parla di storytelling, in realtà, visto che più o meno quello che facciamo da qualche tempo a questa parte, e non solo in questa radio. E comincia così questo libro, per parlare del potere delle storie. L'autrice del libro è ad una serata in cui c'è una sorta di piccolo festival all'aperto, siamo negli Stati Uniti, è estate, ci sono le cicale e ci sono una cinquantina di persone sedute per terra in un prato e un tizio si alza in piedi davanti a tutti e comincia a raccontare la propria storia. Si alza questo tizio, che è una persona di colore, è nero, e comincia a spiegare di come la sua famiglia discenda da una famiglia di schiavi, eccetera, eccetera, di come abbia ottenuto dei diritti legati al fatto, appunto, che il colore della pelle non faccia una differenza tra avercelo o no, cioè tra essere bianchi ed essere scuri. Appena questo tizio sale, l'autrice del libro, che è seduta nel prato, sente di fianco a lei un signore che negli Stati Uniti sono definiti redneck, sono sostanzialmente dei conservatori molto molto forti. Questo signore, con un cappello da baseball, appena vede salire questo ragazzo nero, dice a mezza voce la parola nigga, che sta per... è un modo dispregiativo per dire nero, per dire negro. Lei ha un attimo di stizza, però non dice nulla. Intanto il ragazzo nero sul palco, non c'è un palco, comincia a raccontare la sua storia, e la racconta molto bene, al punto che dice, quando raccontava del nonno che dormiva al freddo, noi sentivamo freddo, quando raccontava del padre che aveva fame, noi sentivamo fame. E conclude questo racconto di circa 10 minuti cantando una canzone, che è una canzone nera, soul, credo, che arriva dalla tradizione nera dei lavoratori afroamericani, e chiede di cantarla a tutti. E a un certo punto, mentre tutti quanti stanno cantando questa canzone, lei si gira e vede il tizio redneck, conservatore, col cappellino in testa, quello che prima aveva detto Nick, lo vede che canta e che piange. Questo è l'introduzione a questo libro, che, ripeto, parla di storytelling, parla della narrazione e del potere delle storie. Questo è quello che riesce a fare una storia, riesce a ripulirla da qualsiasi... ripulire le cose dall'ideologia, da qualsiasi forma di preconcetto, di pregiudizio. E questo è quello che noi speriamo di riuscire a fare tutti i giorni in questo programma, anche in periodi particolari come questo, e anche con storie particolari come questa. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it, se avete avuto una storia simile a questa, se vi è capitato di viverla o di averci a che fare. Prima di cominciare, però, la storia è bella, ma ve la faccio penare ancora un po', perché oggi è quella che Tiziano definisce la playlist perfetta, cioè i tre brani perfetti da, da ascoltare. Quindi se avete voglia di, se avete un registratore con le musicassette, registratevi questa puntata e vi trovate direttamente le canzoni. Se invece avete un computer, andate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, e ci trovate i tre brani che manderemo tra poco. Vi cito qualcosa tipo i Cure, ve li butto lì. Poi abbiamo i Joy Division, basta, mi fermo qui. Non solo, ma sul sito trovate, oltre alle solite, tre brani del giorno, trovate l'ebook. Vi ricordate l'ebook? Vi ricordate che abbiamo fatto un ebook? Ecco, stiamo preparando quello nuovo, ma c'è ancora quello vecchio da scaricare. Vi consiglio di farlo prima che venga appunto tolto, perché c'è l'ebook nuovo. Vi consiglio di andare sul sito della 24, pagina Voi Siete Qui, e scaricarvi l'ebook, trovarvi le canzoni, e soprattutto, questo è un regalo di pochi minuti fa, Tiziano ha stilato un elenco, un PDF che vi scaricate da lì, dal sito della radio, della nostra pagina, un PDF in cui ci sono tutti i brani musicali che abbiamo mandato in onda dall'inizio di settembre fino ad oggi. Ripeto, radio24.it, pagina di Voi Siete Qui. Questa è la playlist perfetta, come dice Tiziano. Questa è anche in parte la storia d'amore perfetta. C'è crisi, dicono, ma il cielo della Sicilia di metà agosto ancora non si paga. Continua a splendere quell'azzurro accecante che ti lacrima gli occhi, anche con i Ray-Ban appena lucidati. Io a quel cielo ho deciso che non ci rinuncio. Fanculo alla crisi. Quest'anno campeggio. Niente mappa, niente stradario, niente prenotazione. Solo qualche numero di telefono appuntato su un foglio volante durante un pomeriggio di noia. Unico baluardo delle nostre certezze, con un flebile giro di vento potrebbe scappar via. A scappare invece siamo noi. Io e lei. Nel tempo libero mi piace leggere, scrivere, infatti mi diletto insomma a scrivere qualcosina, e poi amo giocare a pallavolo. Dall'entroterra agrigentino fino ad uno dei bracci della Trinacria ancora per noi sconosciuto, la punta estrema del Lido Trapanese, meta ambita e rinomata. 17 agosto 2012, destinazione San Vito Lo Capo. È il primo viaggio in 500. Bianca splende la nostra voglia di vita e di libertà. Dal tettuccio aperto riecheggiano note di canzoni conosciute. Una pizzica salentina di cui parla Antonacci ci fa ballare sui sedili rosso fuoco. Lei si affaccia dal tetto e scatta foto a strade incorniciate da campi di grano e sovrastate da cieli che ti ubriacano. Quell'azzurro che ti buca gli occhi. Le strade bruciano, brucia la pelle, bruciano le labbra, brucia la voglia di andare e di compiere questo destino che ci attende. Le scorciatoie di questa Sicilia sconosciuta accompagnano le nostre ore. Sembra che il mondo si fermi a guardarci. Che tutto sia messo lì, al posto giusto, come un quadro perfetto. Il campeggio è di fronte alla spiaggia e l'andare e il venire delle persone ci fa sentire in perenne festa. Anche a mezzanotte sembra mattina. C'è molta frenesia, a tratti inquietudine. Quell'inquietudine adolescenziale che rende ogni posto magico, ogni esperienza un'occasione. La nostra tenda è verde, come il lenzuolo e i cuscini. E sinceramente, non esiste posto più bello al mondo. La notte si dorme comodi. La stanchezza vince i nostri corpi sudati di mare e di sole, spiaggia e sabbia. E farsi la doccia è già un'impresa. Le discoteche, i pub, gli alcolici non rientrano nei nostri progetti. Ci ubriachiamo di natura, con infinite nuotate tra pesci che ti girano attorno come a salutarti, con passeggiate sotto il sole per raggiungere altre calette, con lo sguardo incantato dall'ennesima meraviglia, con il sudore che trasuda da ogni poro di pelle. Questa persona ad oggi non c'è più, fa parte di un passato che comunque resta. Siamo conosciute casualmente tramite interessi comuni, diciamo. Uno specchietto d'improvviso ci riflette, siamo abbronzate e un po' selvagge, bruciate dal sole e dal mare. Ci vedo sorridere e un fermo immagine incastra quel momento nei ricordi più acri. Farà male un giorno se non ci sarai. A sera, stanche, raggiungiamo la cima di un campanile e nel fumo di una sigaretta parliamo di tutto e di niente, mentre fuori la gente si gode un concerto che a noi non interessa. Un faro irradia luce in lontananza. Domani è ora di andar via. Altri luoghi ci attendono, pronti a bruciare di vita, sole, mare e azzurro insieme a noi. Fanculo alla crisi. Sto cielo non si paga. Che cosa unisce questa storia, due ragazzi che ho visto baciarsi a una fermata dell'autobus a Roma, e il discorso di insediamento alla presidenza degli Stati Uniti di Barack Obama? Provo a spiegarvelo. Il racconto di Anna è stato scritto in estate, e si sente perché l'estate schizza fuori da ogni sua parola. Non c'è un unico episodio nella sua storia, ma dei giorni passati sotto un cielo senza un prezzo, con la persona che ama o che amava, come ci ha detto. Motivo per cui non c'è crisi che tenga. È una storia semplice e comune, la storia di due persone, di due donne che si amano, alle quali basta una tenda in cui dormire e un bel mare in cui tuffarsi per essere felici. Leggendo questa storia mi è tornato alla mente un episodio a cui ho assistito circa un anno fa, mentre mangiavo un tramezzino sotto la sede della radio a Roma, in Piazza Indipendenza. Stavo aspettando di salire in radio per andare in onda, ed erano circa più o meno le 3 del pomeriggio, quando ho visto due ragazze di poco più di 20 anni che scherzavano nel modo in cui gli innamorati lo fanno e si scambiavano un bacio. Ero entrato in studio e avevo raccontato che mi era piaciuta la semplicità con cui l'avevano fatto, dal momento che baciarsi fra due persone che si amano è una cosa semplice, è una cosa naturale. Qualche giorno dopo uscì un articoletto, credo fosse una specie di rubrica d'opinione, su non so quale giornale, in cui la giornalista, cioè l'opinionista, scriveva di essere incappata nell'ascolto del mio programma ed essere rimasta basita da come il conduttore di una radio raccontasse un episodio come quello facendolo passare per una cosa normale, quando secondo lei normale non era. Ricordo che mi stupirono quelle parole e mi andai a riascoltare tutta la puntata, cercando di capire se in quello che avevo detto poteva esserci qualcosa che avesse potuto offendere qualcuno. Poi qualche settimana fa ho letto le parole che Barack Obama ha detto durante il giorno del suo insediamento, che è diventato famoso per il playback di Beyoncé più che per quello che lui ha raccontato. E tra le varie cose che ha detto c'è un passaggio che è perfetto per questo giorno, è perfetto per questa puntata ed è perfetto per rispondere a un anno di distanza a quell'opinionista e alla sua sorpresa. E il passaggio del presidente degli Stati Uniti parla di un viaggio e dice così: il nostro viaggio non è completo fino a quando le nostre mogli, le nostre madri e figlie non possono guadagnarsi da vivere in maniera uguale ai loro sforzi. Il nostro viaggio non è completo fino a quando i nostri fratelli e sorelle omosessuali non saranno trattati come tutti davanti alla legge. Perché se siamo veramente uguali, allora l'amore che lega gli uni agli altri deve essere anch'esso, per forza, senza via di scampo, uguale. Sono le 16.23 di un qualunque 14 febbraio 2013. Esattamente un anno fa noi ne avevamo pestata una simile. Vero, Marghe? Un anno fa, noi, il giorno di San Valentino, avevamo fatto una puntata, ci è venuto in mente poco fa, in cui volevamo raccontare la storia d'amore di due ragazzi che ci avevano scritto, di un ragazzo e una ragazza, che si erano conosciuti grazie al programma, se non ricordo male. E le avevano chiesto: ma che bella cosa questa, mandateci la storia scritta da entrambi. Solo che durante il tragitto da lì ad arrivare a qui la coppia si era sfaldata, diciamo, non erano più insieme. In realtà poi no, adesso credo, insomma, se non ricordo male, si sono rimessi insieme, quindi non l'avevamo proprio pestata così grossa. Neanche stavolta l'abbiamo pestata così grossa, perché poi noi non potevamo sapere che alla fine la storia era finita, però ce l'ha raccontata Anna un attimo fa al telefono. Pronto, Anna? Ciao a tutti. Ciao, come stai? Non è stato troppo doloroso, vero, risentire... No, è stato piacevole, dai, ricordi il resto, no? Ne sei uscita tranquilla? Sì. Posso chiederti dopo quanto è finita rispetto a quando è malato? È finita dopo 3 anni quasi. Ma io ti dicevo però rispetto all'estate. Ah, è finita a gennaio. Però era durata 3 anni. Sì, è durato, è stato importante, diciamo, dai. Va bene, no, guarda che non voglio andare lì a rimestare col tarone nella piaga, però... Senti, mi fa piacere, Anna, innanzitutto che la tua voce sia cambiata, che non c'hai più quella camurria che ci avevi addosso all'inizio. No, ma ero mozzerata, semplicemente. Tra l'altro, io che sono di Novara uso un termine che non conosco. Tu puoi spiegarla meglio di me il significato di camurria? Sì, camurria è qualcosa che ti crea un po' di fastidio, un po' di pressione, insomma, un miscuglio eterogeneo di varie sensazioni che ti appesantiscono. Ma non era appesantita, era solo emozionata tutto qui. Dove ti trovi adesso, Anna? Però sono a casa, sto ascoltando la tua trasmissione che è meravigliosa, è magistrale, veramente, ti faccio complimenti. Ti ringrazio, Anna, però la storia era la tua, non era la mia. Senti, tu che cosa fai però nella vita? Io sono un praticante avvocato, aspetto gli esiti dell'esame di abilitazione che dovrebbe arrivare a mesi, speriamo. Quando l'hai fatto? L'ho fatto a dicembre, ora i risultati si sapranno a giugno, credo. Ci mettono poi 6 mesi? L'orale, quindi è un iter un po' complicato. Ma ci mettono 6 mesi per darti un risultato? Sì, 6 mesi. E poi siamo tanti. E poi a questo punto se lo passi devi fare l'orale? Sì, l'orale sì, e poi divento avvocato, se tutto va bene. Avvocato di cosa? Civilista, penalista? Io finora ho fatto penale, però ora sto cercando un po' di ampliarmi. Fare anche un po' di civile, insomma. Senti, hai in mente di rimanere in Sicilia, di uscire? No, io sono qui, temporaneamente vorrei tornare, insomma, a Roma, dove, come ti ho detto, ho lasciato un pezzo del cuore. Quindi l'idea è tornare lì per lavorare anche? Sì, soprattutto, anche se comunque la Sicilia è meravigliosa, c'è un mare fantastico, la gente è favolosa, però... E poi, tra l'altro, non si sente neanche che sei siciliana, Anna. Non ci credo, mi dicono tutti che ho l'accento proprio siculo. Senti, come stiamo a questione di cuore adesso? Ah, questione di cuore per ora è tranquilla. Niente. Non ci pensi neanche? Per ora ho altre priorità, diciamo. Anche perché dopo... Ma vivevate insieme o era una storia... No, quanti anni hai? 28, hai detto. 28, è un po' lunga, non sto qui a dirti tutto perché... Ah. Ok, va bene. Senti, Anna, quando ne parlavamo mi è venuto in mente che c'è un amico che è un po' radiofonico e un po' poeta, ne ho già parlato, si chiama Marco Ardemagni, che ha composto questa poesia che è palindroma come il nome Anna, che è palindromo, no? Che si può leggere da una parte all'altra. Avrei voluto chiamare lui per fartela per recitartela, però non ce l'ho fatta. Comunque la poesia fa così, tu la sai Tiziano, la poesia. L'unica poesia palindroma al mondo. Dice... Anna è lo sol e lo so, l'è Anna. Ah. Questo, Anna, diciamo, questo è per farti un in bocca al lupo per tutto. Grazie, per passare un'altra estate magari anche più bella di quella che hai passato e per quando andrai a Roma per il tuo lavoro, grazie. Per l'esame, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie a te. Mille, Anna, grazie per il racconto, per la chiacchiera e soprattutto per aver ispirato a Tiziano Bonini la playlist perfetta. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. 349-238-6666. Si è naturalmente creato una sorta di sondaggio su chi è a favore e chi no nel fatto che due persone dello stesso sesso stiano insieme. Voi siete qui. È in Sicilia, chiaramente, Anna, nella foto che ci ha mandato... No, non è vero, non è chiaramente in Sicilia, potrebbe essere anche in Grecia, però essendo della Magna Grecia immagino che sia a casa sua, cioè in Sicilia, e la immagino proprio a casa sua, cioè la Valle dei Templi di Agrigento. Alle sue spalle c'è questo tempio greco che riconoscereste ovunque. Lei è appoggiata a una statua gigante appoggiata per terra che sembrerebbe un bronzo di Riace, ma i bronzi di Riace sono in Calabria perché sono di Riace e poi erano in fondo al mare, quindi niente, è appoggiata a una statua, è estate, ha la maglietta con le maniche corte, è sorridente e sopra di lei, sopra il tempio e sopra la Sicilia, un cielo azzurro che non si paga. Amore, sostantivo maschile, dedizione appassionata ed esclusiva, istintiva ed intuitiva fra persone, volta ad assicurare reciproca felicità o la soddisfazione sul piano sessuale. Vicenda amorosa o avventura galante. La persona amata. Inclinazione profonda, basata su un rapporto di parentela o su un'affinità elettiva o su una predilezione rafforzata dalla consuetudine. Etimo, latino, amorem. Buon San Valentino! Grazie ad Alessandra De Luca, un buon San Valentino anche a lei che è venuta. Hai tirato i capelli, Alessandra, stai benissimo. 3492386666, qualcuno mi scrive che anche la poesia "I topi non avevano nipoti" è palindroma, però perdonami, vuoi mettere "I topi non avevano nipoti" con "Anna e lo sol e lo so le Anna"? Poi mi puoi dire che non è proprio super italiano dire "le Anna", L apostrofo e Anna, però è anche vero che Marco Ardemagni è di Segrate, no, non è di Segrate, è di Seregno, quindi insomma lì rimaniamo. Qualcuno mi scrive: "Jack, potrebbe essere la mia storia, non fosse che Stefano mi ha lasciato e fa male anche a me. Un abbraccio in bocca al lupo per l'esame". No, è proprio la tua storia, Jack, perché come hai sentito anche la storia di Anna, e il nome di lei non lo sappiamo, è finita. Io ve lo dicevo che se fate arrabbiare Margherita Hina, il rischio che correte è veramente molto alto. È partito una sorta di sondaggio senza valore, sai, i tipici sondaggi senza valore, più o meno tutti quelli che, no? Sondaggi senza... Sì, no, capito, certo, tizio. Sondaggio senza valore statistico, ma in assoluto tutti i sondaggi hanno il valore di dire una cosa che dovrebbe essere nel futuro, che non è ancora avvenuta. Quindi una previsione che dovrebbe avvenire, ma che ancora non c'è. Di fatto, visto che è nata in maniera spontanea, probabilmente perché siamo in questo periodo e i sondaggi sono all'ordine del giorno, in maniera spontanea sul profilo Facebook del programma "Voi siete qui Radio 24", ma anche al 349-238-6666, una sorta di votazione, non si capisce bene perché, contro o a favore dei rapporti tra persone che hanno lo stesso sesso. In realtà qualcuno ha azzardato sui matrimoni tra persone dello stesso sesso, e allora Margherita si è messa lì e li ha contati durante la pausa della borsa. Io ve l'ho detto, occhio a mandare racconti che poi qui vi sguinzagliamo Margherita Hina e non dormite più la notte, vi conviene dormire, non dormire mai nello stesso letto perché vi trova. E il sondaggio dice che a questo punto, per il valore che ha, cioè nessuno, ci sono l'85% dei voti a favore e il rimanente 15 contro. Bene, anche un bel "chi se ne frega". 349-238-6666, c'è qualcuno che scrive: sempre a favore dell'amore. È bella questa frase. Poi mi dicono, l'ultimo commento su Facebook, Rossana, quello lì, Tiziano: "Sono a favore. Oggi per San Valentino a mia figlia 19enne la sua amica le ha mandato 7 rose, le loro 7 volte che sono uscite. Io e lei eravamo emozionate anche se la persona non era dell'altro sesso". Quindi di fatto a sua figlia è arrivato un regalo da parte di una sua amica. Non ho capito, 7 rose per le 7 volte? Ah, per le 7 volte che sono uscite, cioè ogni volta che sono uscite una rosa. Allora su tutte vale questo messaggio qua, sempre a favore dell'amore, scrive Tiziana. 349-238-6666, se avete voglia di partecipare a questo sondaggio, della serie sondaggi che non hanno senso o sondaggi che non hanno valore. Noi abbiamo deciso, proprio perché era una puntata che parlava d'amore, di leggere una delle più famose lettere d'amore che siano mai state scritte. Stiamo parlando... Scusatemi, stiamo parlando di un signore che si chiama Oscar Wilde e che finì in carcere per questioni legate alla persona che amava e per questioni di cosiddette moralità. Finì in carcere e ci rimase per più di 2 anni, credo, di cui 6 mesi in condizioni orribili, perse 10 kg, stava male. Questa lettera lui la scrive, la scrive all'uomo che ama il giorno in cui è al processo. In questa lettera è proprio chiaramente scritta di getto, e ci sono accelerazioni e rallentamenti, per cui lui dice "vai, parti", però dice anche "però avrei voglia di stare con te". Insomma, è una lettera d'amore in tutto e per tutto, di quelle lettere d'amore che ti conviene spedire senza rileggerle. Londra, 29 aprile 1895. "Mio carissimo ragazzo, questa mia è per rassicurarti del mio eterno amore per te. Domani tutto sarà finito. Se la prigione e il disonore saranno il mio destino, pensa che il mio amore per te è l'idea, la convinzione più ancora che divina, che tu mi contraccambi, mi sosterrà nella mia infelicità e mi renderà capace, spero, di sopportare pazientemente il dolore. Poiché la speranza, o piuttosto la certezza di incontrarti di nuovo da qualche parte, è lo scopo e l'incoraggiamento della mia vita attuale. Devo continuare a stare al mondo per questo. Il caro è venuto a trovarmi oggi, gli ho dato diversi messaggi per te. Mi ha detto una cosa che mi ha rassicurato. Mia madre non ha bisogno di nulla. Vedi, ho sempre provveduto a lei e l'idea che potesse soffrire di qualche privazione mi rendeva infelice. Per quel che ti riguarda, grazioso ragazzo dal cuore di Cristo, ti prego, appena avrai fatto tutto quello che puoi, parti per l'Italia. Riacquista la tua tranquillità e scrivi quelle poesie che solo tu sai con quella tua grazia unica. Non esporti in Inghilterra per nessuna ragione. Se un giorno, a Corfù o in qualche altra isola incantata, ci fosse una piccola casa dove abitare insieme, la vita sarebbe più dolce che mai. Il tuo amore ha grandi ali ed è forte. Il tuo amore arriva a me attraverso le sbarre della prigione e mi conforta. L'amore è la luce che illumina le mie ore. Coloro che non sanno cos'è l'amore, so che scriveranno, se il destino ci sarà avverso, che io ho avuto una cattiva influenza su di te. Se sarà così, tu dovrai scrivere a tua volta che si tratta di una falsità. Il nostro amore è stato sempre bello e nobile. Se sono stato la vittima di una terribile tragedia, è perché la natura di questo amore non è stata compresa. Nella lettera di questa mattina dici una cosa che mi dona coraggio. Devo ricordarla. Scrivi che è mio dovere, nei tuoi confronti e nei miei, vivere nonostante tutto. E credo che sia vero. Proverò a farlo. Voglio che tu tenga il signor Humphrey informato sui tuoi movimenti, così quando verrà potrà dirmi che cosa stai facendo. Credo che gli avvocati possano vedere i prigionieri abbastanza spesso, così potrà comunicare con te. Sono contento che tu te ne sia andato. So quanto deve esserti costato, ma sarebbe stata un'agonia per me saperti in Inghilterra quando il tuo nome fosse venuto fuori durante il processo. Spero che tu abbia copie di tutti i miei libri, le mie sono state vendute. Tendo le mie mani a te. Possa io vivere per toccare le tue mani, i tuoi capelli. Penso che il tuo amore vigilerà sulla mia vita. Se dovessi morire, voglio che tu viva una vita serena da qualche parte, circondato da fiori, libri, dipinti e tanto lavoro. Cerca di farti sentire presto. Ti sto scrivendo questa lettera in mezzo a una grande sofferenza. Questa lunghissima giornata in tribunale mi ha reso esausto. Carissimo ragazzo, dolcissimo fra tutti gli uomini, il più amato e adorabile. Aspettami. Sono ora, come sempre da quando ci siamo incontrati, con eterno amore, devotamente tuo, Oscar. Allora, il PDF che abbiamo messo sul sito, in cui ci sono tutti i titoli delle canzoni che abbiamo mandato in onda dal 2012 al 2013 in questa stagione, non sono linkabili, mi dispiace, qualcuno mi scrive, sarebbe stato meglio un PDF con i link delle canzoni su YouTube in modo da scaricare con agilità. Hai idea di quanti copia e incolla dobbiamo fare con questa lista? Ragazzi, diciamo che se fai andare le ditine, però ti scegli solo quelle che vuoi e le altre lasci in pace, te le guardi su YouTube e poi magari te le scarichi. Vi ricordo, sul sito di Radio24, alla pagina di Voi Siete Qui, trovate come tutti i giorni un pezzo del racconto di oggi di Anna, trovate la foto di Anna, trovate la mappa con tutti i punti che stanno rappresentando le storie che stiamo mandando in onda. Trovate però anche l'ebook di Voi Siete Qui, che scaricate gratuitamente. Ci sono 100 storie dello scorso anno e stiamo preparando quelle nuove, ma trovate soprattutto tutto la playlist che abbiamo mandato in onda, tutti i brani 2012-2013. È sotto la dicitura Sacrica, perché evidentemente qualcuno l'ha scritto in fretta. Sacrica invece che scarica la playlist 2012-2013. Fate in fretta prima che lo correggano, perché rimane una piccola chicca. Sacrica la playlist. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Hina. Grazie ad Anna soprattutto. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Silvano e sono di Zocca, Modena. La storia di domani è la mia e parla di un terremoto avvenuto a Marano sul Panaro, che ha colpito anche Zocca nel 52. Questa è la mia storia e io sono qui.